Sicuramente nessuna sorpresa di fronte all'uso della fiducia in legge di stabilità, cioè di fatto ormai è un governo che decreta detta legge e viene in qualche modo confermato soltanto a colpi di fiducia senza una vera e propria discussione parlamentare. Questo ci dice appunto che dal punto di vista del sistema la nostra democrazia, sicuramente almeno anche quella rappresentativa per delega, non è in buona salute. Novità della legge di stabilità neanche troppe anche lì, nel senso che gli unici poi in realtà grimaldelli di intervento, ad esempio sul lavoro, sul contratto a tempo determinato, sono decaduti, chissà come mai, nonostante appunto per quanto mi riguarda la mia opinione era già negativa, ovvero il nodo sul contratto a termine, dove appunto l'emendamento chiedeva una riduzione della durata da 36 a 24 mesi come tempo massimo, ma anche una riduzione del numero di rinnovi possibili. In realtà in un periodo e soprattutto in un diritto del lavoro in cui il contratto a termine può essere utilizzato in qualsiasi momento, perché appunto è caduta la causa oggettiva e quindi in termini organizzativi e produttivi per utilizzarlo, la durata è piuttosto relativa, soprattutto se poi andiamo a guardare i dati e capiamo che nel 15% dei casi, nel 15% di circa 500.000 nuovi contratti a termine, ce lo dice oggi l'osservatorio sul precariato INPS, circa il 15% durano meno di 2 giorni, di conseguenza 36 mesi o 24 mesi di fatto sono già fuori dalla realtà di un uso abbastanza strategico e abbastanza mercificatorio anche di questo tipo di contratto. Come abbiamo già detto molte volte in questa rubrica, abbiamo visto l'esplosione, no, dei contratti a termine, ma in quella norma è venuto meno anche l'aumento delle indennità da pagare dall'azienda per i licenziamenti senza giusta causa, che poteva essere forse uno strumento per disincentivarli. Anche su questo, come dire, guai mai a fare uno sgarbo alle aziende. Esatto, sicuramente non metterle mai di fronte alle proprie responsabilità e all'uso anche autoritario che oggi se ne fa della libertà di licenziamento. Quello che si chiedeva in legge di stabilità nell'emendamento era semplicemente l'aumento dei minimi di indennizzo e non i massimi, e continuiamo a non toccare invece lo strumento licenziamento vero e proprio, e sappiamo benissimo che i licenziamenti per discriminazioni illegittimi disciplinari aumentano in questo paese. L'avete detto anche voi oggi in un'altra intervista con il segretario della FIOM Bologna. Credo che siano appunto i temi di cui ci dovremmo prendere carico, perché poi dall'altro lato si osserva, anche stamattina leggevo il comunicato del patto tra l'accordo Intesa San Paolo per esempio e Banca Veneta, una delle due banche venete acquisite quest'estate da San Paolo, cioè regalate e pagate poi dai contribuenti, per cui le nuove 1000 assunzioni che si prospettano sono per lo più in somministrazione. Quindi ecco, vediamo che i problemi del mercato del lavoro, della qualità del mercato del lavoro, della responsabilità delle aziende, la libertà di cui godono è effettivamente ormai esponenziale rispetto invece a quello che richiederebbe davvero il minimo in termini di diritti e dignità dei lavoratori. A proposito di responsabilità delle aziende, ieri Amazon non si è presentata alle trattative appunto con i sindacati, ma convocata anche dalla prefettura, quindi insomma un atteggiamento piuttosto arrogante. Sì, Amazon è sicuramente arrogante, però fa la parte davvero di Golia che non può essere né messo in discussione né toccato, ma quello che a me sembra inquietante è anche la risposta di Amazon quando parla che non ci sono le condizioni di tranquillità per svolgere un'assemblea o un'interlocuzione con le parti sociali, come se invece essere sfruttati da Amazon, il cottimo, i ritmi incessanti, lo sfruttamento diciamo intensivo dei lavoratori non fossero queste le vere condizioni insopportabili, intollerabili, e per cui appunto oggettivamente si dovrebbe aprire un tavolo di discussione con l'azienda. E nel momento in cui è l'azienda a dire appunto che non si siede al tavolo, sottrarre qualsiasi diritto all'azienda, non ai lavoratori, perché anche notizie di oggi verso Amazon è che l'assemblea sindacale indetta appunto dai confederali è stata scortata, cioè i sindacati sono stati scortati dai carabinieri per entrare in fabbrica. Cioè, siamo al medioevo. Varie volte abbiamo avuto modo di capire che la tua posizione rispetto all'attuale legislazione del lavoro non prevede migliorie, ma insomma un profondo ripensamento. Prima che entriamo con l'anno nuovo magari anche nella par condicio e non siamo magari proprio liberi di poterlo dire, attualmente nello scenario politico italiano vedi qualche forza che possa, o perlomeno abbia l'intento di rivoluzionare completamente la legislazione attuale sul lavoro? Oggi sono sicuramente alternativa di potere al popolo che dal punto di vista della legislazione sul lavoro punta a un intervento forte, in qualche modo di sradicamento dell'assetto costituito, votato negli ultimi 20 anni, cioè anzi va anche più indietro di 20 anni, perché si parla anche di scala mobile, nonostante appunto siamo in un periodo di scarsissima inflazione, quindi diciamo ci ancoriamo sempre alle briciole da quel punto di vista. Quindi loro sicuramente sono una forza che puntano a ribaltare i rapporti di forza interni al mondo del lavoro e rapporti di produzione. Poi voglio dire anche che in realtà il programma che fu del solo partito Sinistra Italiana sul lavoro, che però strategicamente quella dirigenza ha voluto tenere nel cassetto fino adesso, è altrettanto potente e forse anche più dettagliato, visti i tecnici che ci hanno lavorato, penso al professor Barbieri, ma anche tanti altri. Quindi in realtà le proposte ci sono, il problema è poi la strategia politica di quale coalizione che vorrà portarle effettivamente sul piatto della, in qualche modo, competizione elettorale, e cambierà, viste le alleanze.